Ma Julian Carax arriva o non arriva? Lo scopriremo solo vivendo. Vai, vai, comincia. Salve a tutti, benvenuti al nuovo appuntamento con la trasmissione Ti racconto una storia, il volo dell'Aquila, che trasmettiamo dalla Galleria San Lorenzo in pieno centro storico di Montevarchi, per il quale ringraziamo come sempre il nostro gentile concessore degli spazi, ovvero Stefano Neri Santo Subito. Stasera purtroppo mi trovo privo del mio compagno alla ricerca della montevarchinità, ovvero Julian Carax, che è assente per malattia, quindi assente giustificato alle prese con l'influenza, d'altra parte di questi tempi. E comunque non siamo in assenza di un ospite prestigioso, un ospite che ha giocato per 3 stagioni con la maglia del Montevarchi Calcio, ma insomma sono state 3 stagioni piene di soddisfazioni e di cose molto belle da raccontare, e presto ce le racconterà. La sua carriera è partita da Reggio Emilia, perché anche lui, come altri ospiti, non è montevarchino, ma comunque ci ha fatto una famiglia, oltre ad averci giocato a pallone. Bando alle ciance, sveliamo il mistero. Con noi stasera in studio Aldo Notari. Buonasera, io sì, vengo da Reggio Emilia, sono partito dal settore giovanile della Reggiana e poi a 19 anni ho cominciato a peregrinare per l'Italia giocando in Serie C e quarta serie. In questi anni, la prima stagione l'ho fatta a Vasto, la Pro Vasto, giù in provincia di Chieti, nel girone C. Poi successivamente 3 anni a Montevarchi e 8 anni a Siena, poi solo divertimento. Aldo, allora ci hai appena svelato di non essere montevarchino, già l'avevo detto io, ma insomma ti ho un po' aiutato in questo, lo sapevi meglio di me, ma sei di Reggio Emilia. E che effetto fa per una persona di una città importante nella regione dove risiede arrivare a Montevarchi? Che effetto ti fece nel 1970 arrivare a Montevarchi? Ma nessuna cosa particolare, anche perché devo dire che mi sono trovato subito bene a Montevarchi, indipendentemente dall'essermi poi fermato. Quindi mi sono sentito subito a casa, ben voluto dalla gente, perché penso che sia la cosa migliore per poter poi anche rendere di più nella stagione sportiva. Reggio Emilia è una città, e quindi un bambino di città, già altri ospiti tipo Garozzo che veniva da Roma ci ha fatto un racconto sul suo approccio al calcio di quando era bambino. E a Reggio Emilia, come era da bambini giocare al calcio? Giocavate per strada e poi qualcuno vi aveva visto e quindi vi aveva portato a giocare nella Reggiana? Oppure era normale segnarsi alla scuola calcio della Reggiana e quindi poi ognuno faceva la sua strada? No, la cosa è un po' diversa. Io non ero proprio nel centro città, ero piuttosto in periferia. Quindi praticamente eravamo sempre fuori. La casa praticamente c'era la sera, il giorno per mangiare e la sera per mangiare e dormire. Eravamo sempre fuori in mezzo ai prati a giocare. In casa mia avevo avuto uno zii, due zii che giochicchiavano già a calcio, quindi per me, a discapito anche un po' della scuola, il pallone era la prima cosa. Quindi non è che abbia trovato difficoltà di nessun genere. No, partire poi, io sono partito dalla parrocchia dove si faceva pallavolo, pallacanestro, atletica, calcio, si faceva ogni cosa, dai campionati fin da bambini. Poi a 13 anni sono andato in una società di città dove sono stato 2 anni. 2 anni lì nei quali ho avuto una soddisfazione che poi non si è completata perché non c'erano le caratteristiche e le capacità. In una di quelle stagioni lì praticamente ero andato a Milanello a fare una prova col Milan, al Milanello appena inaugurato. E niente, dopo quella prova lì praticamente sono entrato nella Reggiana, ho fatto i primi sei mesi perché non avevo ancora compiuto i 16 anni nella juniores, e poi dopo ho fatto 3 anni la primavera e 2 anni la De Martino, che praticamente allora era il campionato riserve. Quindi la De Martino, facci capire meglio a me e anche agli ascoltatori di Radio Big World, la De Martino, di cosa sarebbe stata, cosa vuol dire il campionato delle riserve? Praticamente si può paragonare alla seconda squadra che già è in vigore in Spagna e in altre nazioni. Praticamente era una rosa allargata della prima squadra, e dove giocando il mercoledì provavano la maggior parte anche dei titolari, per chi rientrava da un infortunio, chi doveva recuperare, insomma, perché dar modo anche all'allenatore di vedere le condizioni di tutti i giocatori, no? Solo di determinati. La Reggiana faceva la Serie B in quegli anni, e allora tu giocavi anche contro calciatori delle prime squadre di Serie B? Sì, ma anche praticamente il campionato, quello della primavera è uguale ad ora, A e B. La De Martino pure, era squadre di Serie A e di Serie B. Il girone settentrionale praticamente era composto da Milano, Torino, Bologna, Parma non c'era, ma la maggior parte delle squadre A e di B. Quindi c'era la possibilità, e questo era sicuramente un fatto positivo per noi più giovani, di giocare contro i giocatori di Serie A. E ti è capitato? Sì, spesso e volentieri, perché praticamente quasi tutte le partite. Cioè può essere una situazione particolare un anno che, giocando contro il Torino, praticamente la settimana antecedente avevano riposato e quel mercoledì giocò la prima squadra al completo. Adesso non mi ricordo quanto si perse, perché naturalmente erano tanti. E anche quella è una delle soddisfazioni che si hanno giocando a calcio. Quindi poi è partita la tua carriera nelle prime squadre, e se non proprio la Reggiana, magari da qualche altra parte. Ma come sei arrivato a Montevarchi? Dunque, nella Reggiana in prima squadra in Serie B non ho mai giocato. Poi è arrivato il militare. L'anno del militare la Reggiana mi ha mandato in prestito alla Provasto, che era la Serie C del girone C meridionale. E lì ho fatto una stagione lì. Poi dopo sono rientrata alla Reggiana e sono venuta a Montevarchi per un motivo abbastanza banale, perché il direttore sportivo della Reggiana, allora Del Grosso, era molto amico di Picchioni, e l'allenatore che venne a Montevarchi nel 71 era Collesi, che l'anno antecedente allenava il Chieti, che era nel girone C della Serie C dove era la Provasto. Quindi lui aveva richiesto alla Reggiana, e la Reggiana ben volentieri, essendoci questa amicizia con Picchioni, molto volentieri ha accettato la proposta. E devo dire che non è che abbia sbagliato, perlomeno per me non ha sbagliato. Anche perché ancora ci sei a Montevarchi. Quindi ci hai detto di aver giocato anche nella Serie C meridionale. Sì. Che differenza hai trovato tu fra giocare la Serie C Centro Italia con il Montevarchi, ad esempio, e quella meridionale con la Provasto? Il girone meridionale era, almeno in quei tempi, era tutto particolare, perché ad esempio in un campionato su 38 partite non c'è stato nessuna squadra che abbia vinto in trasferta. Questo la dice abbastanza lunga dell'ambiente in cui ci si trovava andando a giocare in trasferta. Era sicuramente più cattivo del girone B, allora, dove poi si è trovato in Montevarchi. Però anche lì è stata una buona scuola di insegnamento. La Reggiana, squadra di Serie B, che aveva probabilmente un modo formale di stare all'interno della società, non lo so, la divisa, o fare certe cose che in questo momento non mi vengono in mente, ma forse ce le dirai. Essere poi venuto ad esempio a Montevarchi, quindi una squadra di paese, alla fine un ambiente più familiare, più stretto, anche se cercava di essere grande, che differenze hai notato? Ma grandissime differenze non ci sono state, perché la Reggiana era sì in Serie B e ha rischiato in quegli anni 2 volte di salire in Serie A, però non è che ci fosse più che altro era un po' un problema per noi giovani, perché allora c'erano le valigie, non le borse, e a volte, spesso invece di una personale ce n'erano due, perché la seconda era quella dei giocatori della prima squadra, veri, quindi ci toccava portare la valigia. No, ma era stato, già avevo visto Avasto, insomma, che anche lì è un paesone grosso, però ma nessun problema di diversità, anche perché devo dire a Montevarchi in quegli anni lì era sicuramente molto bene organizzata, perché oltre a dirigenti, una cosa che mi è sempre rimasta impressa, c'era un signore in segreteria che era veramente un signore e che teneva e sapeva come tenere, insomma, in piedi, anche aiutare la società, che era Renato Piazzese. Non ho trovato nessuna difficoltà, mi sono trovato subito bene e non ho trovato grandi problemi, ecco. Renato Piazzesi, di cui anche altri ospiti ci hanno già parlato con parole molto molto lusinghiere. Entriamo quindi nel vivo della ricerca della Montevarchinità, alla fine quello che si prefigge di fare la nostra trasmissione. Aldo Notari, arrivato a Montevarchi, ci hai detto che l'ambiente era felice, che ti sei subito trovato bene, ma ad esempio il tuo rapporto con i montevarchini era un rapporto cordiale, oppure all'inizio è stato distaccato e poi è diventato cordiale? Perché ci hanno raccontato ad esempio che era comune ospitare nelle case dei tifosi, di alcuni tifosi, ad esempio a pranzo i calciatori che venivano da fuori. Insomma, è capitato a qualcuno? A te ti è successo? Sì, sì, è capitato abbastanza, anche spesso. Forse anche perché io ero giovane, perché avevo 20 anni, quindi, però mi è capitato spesso ed ho mantenuto una cosa che non sono riuscito a fare a Siena invece. Ho mantenuto l'amicizia da allora fino ad adesso, insomma, continuiamo a vederci con quelle famiglie, a frequentarci, quindi non ho proprio, cioè, per me era stato effettivamente come essere a casa, non ho trovato difficoltà nell'ambientamento. Poi in quegli anni lì, per modo di dire, la mattina noi non facevamo allenamento allora, andavo in uno studio di un geometra a fare qualcosa, quindi insomma proprio l'ambiente aiuta molto. Anche questo è stato un motivo per cui mi ci sono trovato bene e sono andato via, insomma, così, non proprio a cuor leggero. In effetti i senesi sono proverbiali per il loro modo di condurre l'esistenza, diciamo, in una maniera un po' chiusa, anche se probabilmente questo gli permette di conservare la loro identità, il loro spirito. Ma alla fine l'identità dei montevarchini probabilmente un'altra, è quella di essere un po' più giocherelloni, un po' più socievoli magari anche con le persone che vengono da fuori. Ma al di là di questo, entriamo adesso nel calcio giocato con il Montevarchi. Siamo negli anni 70, anni in cui a Montevarchi qualche soddisfazione molto importante ce la siamo tolta. Ci hanno parlato qualche puntata fa un altro ex calciatore, Lucchesini, di uno storico spareggio a Firenze contro il Borgo San Lorenzo, e diciamo la Firenze prima. Parliamo adesso della Firenze seconda, visto che Aldo Notari era uno dei calciatori che ha partecipato al famosissimo spareggio contro la Pistoiese giocato al Franchi di Firenze. Adesso, Aldo, non so se ci riuscirai, se ci riusciremo, la magia del volo dell'aquila, cerca di riportarci con le tue parole a quei momenti, facci vivere quelle impressioni come se anche noi che siamo nati dopo fossimo stati lì. Dunque, sicuramente è difficile dimenticare quella giornata, per ovvi motivi, prima di tutto quello calcistico, ma anche quello, diciamo, umano, perché noi già eravamo a Firenze, mi sembra, dal giorno prima, quindi non potevamo sapere le persone che si sarebbero mosse per venire alla partita. Però, tramite un filmino ripreso da Roberto Soldani, si vede tutta Montevarchi uscire dal paese e mettersi in autostrada e venire a Firenze. uscire dal sottopasso e trovarsi di fronte a quella muraglia umana che era delle gradinate è stato sicuramente un qualcosa di particolare. Poi la partita in se stessa, quello che era tutto, a me rimane impressa, cioè raffiguro la gioia di Montevarchi in una persona, Brilli. E vi spiego anche il perché. Perché finita la partita, ne siamo usciti dagli spogliatoi per salire in pullman, lì accanto al pullman c'era appunto Brilli con la maglia, mi sembra, e niente, ecco, vedere la sua gioia con questa maglia, cantare con, avvolto nella una bandiera rosso-blu, cioè è un'immagine che ho sempre dentro di me, che ogni tanto rivedo. E questo secondo me voleva appunto dire, manifestava praticamente quello che era la gioia di tutto il paese. E invece, per quanto riguarda l'aspetto più tecnico della giornata, alla fine, la partita, che emozioni provasti durante la partita, appena finì la partita? Cosa ti ricordi? La partita sicuramente è stata sofferta per noi, perché non è che abbiamo dominato, cioè diciamo che sicuramente il pallone l'ha gestito molto di più la Pistoiese. Non hanno creato grandi occasioni da gol, nel senso di dire siamo stati fortunati. Noi abbiamo avuto la capacità e la fortuna di velocizzare all'ultimo minuto quell'azione e fare gol, anche se in un modo che si può anche qualificare non sportivissimo. E spiego anche il motivo, perché praticamente il fallo laterale, la palla l'avevo toccata io, quindi il fallo laterale della Pistoiese, solo che la palla mi era rimasta lì e ho preso la palla, ho battuto il fallo laterale e poi è venuto il gol. Quindi ecco, però in una partita ci sono tantissime occasioni. Quella è stata così, non è da dire che uno sia stato bravo e quell'altro. Si vede che era segnato che dovevamo vincere noi e così è stato. Poi dopo la partita in sé per sé, cioè la gioia finale, quella del giro di campo, era enorme, anche perché era stato un anno un po' particolare. Ci eravamo partiti con Angelillo, poi Angelillo era stato allontanato quando eravamo primi in classifica, è venuto Balleri che ci ha portato qualcosa anche di suo, quindi insomma è stata effettivamente una gioia in una partita che ha riempito un po', racimolato tutto quello che era stato il campionato. Durante una partita in generale, quindi potrà essere capitato tante volte, ma durante quella partita in particolare, quindi lo spareggio a Firenze contro la Pistoiese, per gli ascoltatori di Radio Big World che non sono di Montevarchi e che magari non capiscono bene di cosa stiamo parlando, via via che passa il tempo, che il cronometro scorre, aumentano le paure, aumenta invece la fiducia, aumenta più il pensiero non ce la faremo o quello ce la faremo? Il discorso era questo: noi era praticamente tutto il campionato che eravamo davanti, o primi o secondi o così. Eravamo arrivati, soprattutto da un punto di vista psicologico, sicuri di noi stessi. Cioè, non avevamo paura. Si poteva perdere, però non avevamo quel timore, la paura finisce la partita, se finisce ci saranno i supplementari, c'era rigori, quello che ci poteva essere. Noi siamo stati, secondo me, superiori sotto il punto di vista psicologico, perché tutto il campionato ci aveva dato quella sicurezza, soprattutto in difesa era difficile prendere gol. Davanti avevamo due attaccanti sicuramente molto bravi, di categorie superiori, perché poi sono saliti tutti e due. A metà campo avevamo l'esperienza e la gioventù come abbinamento tra Picciafuoco e Bencini. Non avevamo proprio la paura, non ci aveva mai preso in quella partita. Poi ripeto, la fortuna ha voluto che venisse il gol all'ultimo minuto, però ecco, di dire la paura di andare ai supplementari, noi no, anche perché loro avevano speso molto più di noi. E questo durante il campionato? Ma anche durante quella partita, perché loro, vedendo di avere il maggior tempo il possesso palla, vedere avvicinarsi la fine della partita, dava fastidio il fatto di non riuscire a fare gol, mentre invece da dall'opposto noi eravamo, ci dava la carica, che dire, non si è corso pericoli, non, quindi che ormai noi eravamo tranquilli, insomma la tranquillità ci ha aiutato anche quella. Uscire dal tunnel al Franchi di Firenze e, come ci hai detto, trovarsi davanti una muraglia di tifosi montevarchini per uno spareggio importante è un'emozione, ma nella tua carriera sportiva a Montevarchi ne hai provata anche un'altra, ovvero uscire dal tunnel e sei al Marassi di Genova e davanti c'è il Genoa. Che tipo di emozione è quella? È diversa? È la stessa? L'emozione è la stessa, però c'è anche lì un fatto psicologico. Lì a Genova noi non avevamo niente da perdere, che noi andavamo in casa della prima in classifica, dei più bravi, quindi noi sempre convinti, decisi nel fare la nostra partita, noi anche se si fosse perso non potevamo rammaricarci di niente, e questo è stato sicuramente il fattore che ci ha un po', che ci ha dato quello spirito anche lì di far gol sempre poi verso la fine con un altro giocatore, anche se anche lì avevamo la squadra, c'era, non è che ci fosse andati, nonostante poi alla fine siamo retrocessi, però come complesso di squadra era buono. Poi ci sono stati altri motivi interni allo spogliatoio che forse ci hanno condannato alla retrocessione, però cioè, la qualità della squadra c'era. La macchina del calcio alla fine funziona bene se tutte le componenti funzionano, e quindi non è solo giocare la partita, ma è probabilmente anche vivere lo spogliatoio, diciamo, o l'ambiente durante tutta la settimana con una certa armonia. Sì, quell'anno lì si era creato, era inevitabile forse, perché erano due gruppi, il gruppo dei vecchi e il gruppo dei nuovi, che sicuramente quando non è che ci sia mai stato nessun problema, diciamo, però a volte nei momenti in cui serviva anche a volte fare un sacrificio in più per un altro, inconsciamente forse qualche volta non è successo, perché se no diventa difficile per chi c'era spiegarsi anche una retrocessione, perché praticamente siamo retrocessi a Rimini e siamo retrocessi le ultime tre partite, insomma, a Imperia, Rimini e in casa con l'Anconitana, quindi cioè, partite che erano sicuramente dove le squadre non avevano niente da chiedere. Ad esempio a Imperia il pareggio salvava tutte e due le squadre e siamo riusciti a perdere lo stesso, quindi insomma la dice lunga la cosa, ecco. Abbiamo scoperto che Notari ha dato il via all'azione che portò al gol nello spareggio di Firenze contro la Pistoiese, battendo più o meno furbescamente un fallo laterale. Ma Aldo Notari che ruolo aveva in campo e le sue caratteristiche quali erano? Ma dunque, io a Montevarchi sono venuto come mediano, perché nella Pro Vasto giocavo mediano, come nella Reggiana giocavo da libero, perché allora c'era il libero, però praticamente poi dopo le prime due partite dai terzino, e poi praticamente ho giocato sempre terzino fino agli ultimi due anni a Siena, dove sono ritornato a giocare mediano, però insomma ho sempre giocato terzino. Nel calcio di quegli anni essere un difensore era una cosa particolare, ci hanno raccontato di difensori che si aggrappavano, strappavano, facevano marcatura uomo molto strette, molto arcigne, mentre nel calcio di oggi pare che la cosa sia un capellino differente, è vero o no? Vero, sicuramente non è un gioco, diciamo, tipo pallacanestro, dove si evitano, vanno evitati i contatti anche se ci sono. Però la cattiveria, la giusta cattiveria ci deve essere, perché altrimenti praticamente non può essere bravo, ma non va tanto lontano. Sicuramente un anno di Serie C nel girone C ha aiutato tanto in questo senso, perché lì effettivamente diventa difficile stare zitti, perché si comincia a iniziare dopo qualche minuto con l'insulto a lui, poi ai vari componenti della famiglia, per vedere se reagisce o meno, in quale modo può reagire. Insomma, sono tutte cose che si guarda bene dall'insegnarle, soprattutto ora, a quelli che, ai bambini, perché è chiaro che l'importante è giocare, cioè divertirsi. Però voglio dire, anch'io, nonostante il fisico non mi abbia mai aiutato, a sentire la gente da fuori non è che fossi uno tanto buono, ecco. D'altra parte, se nel 2006 essere forse così maliziosi è stata una delle componenti che ci ha aiutato a vincere il mondiale, la famosa testata di Zidane che lasciò la Francia in 10 nella finale, sembra che sia stata data perché non riuscì a resistere alle provocazioni che gli venivano rivolte. Notari, se giocasse nel calcio di oggi, si troverebbe bene oppure no? Parto da un presupposto: le dimensioni del campo sono le solite, il numero dei giocatori è il solito, quindi sicuramente è cambiato qualcosa nella parte atletica, perché voglio dire, anche noi ai periodi, in quegli anni, in quei tre anni qui con Balleri a Montevarchi, si faceva gli scatti da parte a parte del campo, sono circa 100 metri, e in due o tre facevamo 11-2, 11-3, quindi non è che si andasse piano. Quindi secondo me, come quelli di ora potevano benissimo giocare ai tempi miei, penso che anche noi si potrebbe benissimo giocare ora. Anche perché forse ora, e poi dopo con, logico, con l'esperienza tante cose cambiano, per modo di dire, ora è stare appiccicati, a volte capita di vedere un difensore che è appiccicato, attaccato all'attaccante. Io mi chiedo spesso come faccia a vedere la palla. Perché se ha l'attaccante davanti con la palla a piedi, lui o calcia così a vuoto, oppure non... Quindi la cosa mi sembra quasi più logica è quella di far sentire il contatto, però poi indietreggiare quel mezzo metro in modo da vedere la palla dove possa muoversi. Domanda di rito che poniamo a tutti i nostri ospiti che sono stati calciatori o allenatori nel Montevarchi, vale a dire: avevi un rito scaramantico, visto che si dice che i calciatori ne abbiano, e la partita che più ti ricordi giocata con la maglia rossoblù? Ma qualche scaramanzia c'è sempre, penso che ci sia, almeno io qualcosa ho sempre avuto. La partita più bella, quella, sicuramente quella che è impossibile scordarsi, è lo spareggio di Firenze, questo è innegabile. Un'altra soddisfazione è quella giocando l'ultimo anno in casa con l'Empoli, segnai, l'unico gol fatto in tre anni, però segnai, quindi ecco, quella è un'altra soddisfazione, banale, però per un terzino, non insomma qualcosa era, anche perché non è che come terzino andassi spesso a tirare in porta, perché il compito che ho sempre avuto è sempre stato quello, semmai, di andare sul fondo e fare e crossare per l'attaccante. Quindi in quel caso si vede o ho sbagliato a crossare ed è venuto il gol, oppure qualcosa è successo. E appunto, raccontaci questo gol, visto che è il tuo unico gol a Montevarchi, fa storia, e cosa si prova a fare gol per uno come te che alla fine non ne avrà fatti tantissimi in carriera? No, per quello no, perché a parte nel settore giovanile della Reggiana prima, però a Vasto non ho segnato, a Montevarchi in tre anni ne ho fatto uno, e praticamente allora c'era solo il tredicesimo. Rientravo da un infortunio a Teramo ed ero in panchina come tredicesimo. Balleri levò una mezzala e mi mise da mezzala con uno scambio, mi sembra, con Scarpe Trevisan, poi entrai in area e insomma segnai. Ho tirato la porta, ha voluto che si è mossa la porta e ha rincorso il pallone, o il pallone ha trovato lo spazio giusto. È stato un gol decisivo? No, perché eravamo già in vantaggio 2-1, quello è stato il 3-1. Come soddisfazione ha chiuso la partita, diciamo così. non è stato decisivo, ma ha dato un po' di tranquillità. Anni 70, anni in cui la società del Montevarchi Calcio aveva al suo timone personaggi, persone molto importanti nel tessuto sociale montevarchino, ad esempio presidente era Scala, e comunque c'erano già i Losi e i Farolfi a fare da corollario a tutta la dirigenza. Che ricordo hai di queste persone che hanno fatto tanto bene alla società del Montevarchi e che con tanto bene sono ricordate dai montevarchini? Il ricordo sicuramente positivo e bello per tutti, perché effettivamente era un gruppo abbastanza numeroso, specialmente il primo anno, però erano molto legati fra di loro, riuscivano ad ottenere i risultati anche per quel motivo lì, pur essendo in tanti, e non è facile avere lo stesso pensiero quando si è in tanti, insomma. Però sia lo Scala, il Farolfi, il Losi, sicuramente qualcuno me ne dimenticherò e mi dispiace, ma il Papini, il Parigi, Massini, poi chi c'era, Biondi, poi tanti altri, insomma era un buon numero. Il ricordo è sicuramente positivo per tutti, perché soprattutto per quei due, ad esempio il Losi è sempre stato quello più vicino a noi, anche come accompagnatore, quindi era una persona che sicuramente ci aiutava molto, soprattutto da un punto di vista psicologico, perché ci teneva sempre anche su di morale, con le battute e così, quindi secondo me aiutava parecchio in quel periodo. Dopo un po' di campionati passati negli anni appena trascorsi, vale a dire 10-15 anni fa, con presidenze esterne o comunque con presidenze che hanno avuto un po' di problemi, adesso nell'odierno siamo ritornati ad una situazione che si potrebbe in qualche modo paragonare a quella che era negli anni 70, vale a dire un gruppo nutrito di persone di Montevarchi che hanno a cuore le sorti della società rossoblù. Vedi, con la tua visione delle cose odierna, vedi la possibilità che questa società riesca a fare ancora dei passi in avanti rispetto a quelli che già hanno fatto, che comunque già non è poco? Ma io penso di sì, per questo motivo, anche se ci vuole tempo, perché non è detto che si possa tutti gli anni vincere il campionato. Questo secondo me è una cosa che deve anche correre un po' nella tifoseria, perché per fare una squadra che poi possa reggere per quei 2, 3, 4 anni in un campionato professionistico come la C di ora, bisogna creare l'ambiente, creare un numero di giocatori su cui poi appoggiare anche tutti quei ragazzi giovani anche del settore giovanile, e quindi ci vuole tempo. Però io penso che sicuramente questo potrà succedere proprio per questo motivo, perché a capo della società c'è gente del posto. I benefattori dall'esterno a me non sono mai piaciuti, perché potrà andare bene per una stagione, visto anche l'esperienza di Siena. Il paese Montevarchi, secondo me, è una società che può benissimo fare la Serie C, però senza pensare di andare dove non è possibile. Quindi con la dovuta tranquillità, come anche adesso ogni tanto sento, perché non è che ci vada molto spesso allo stadio, però la tifoseria quando perde un po' si può anche lamentare, può anche essere giusto, però da una parte bisogna anche capire che siamo 11 contro 11, è il primo anno di quarta serie, è una squadra parecchio giovane, ma anche in un certo qual modo giustificata e incoraggiata. Secondo me a fine anno sicuramente avranno una posizione buona, perché quando si sono salvati e hanno fatto quello che dovevano fare, se poi viene qualcosa in più riescono, perché anche il qualcosa in più viene con la tranquillità. Siamo arrivati al termine di questa puntata della serie Ti racconto una storia, il volo dell'Aquila, il nostro volo alla ricerca della montevarchinità. Stasera privo del mio compagno di viaggio Julian Carax, che salutiamo calorosamente, rimettiti presto. però in compagnia di un regista d'eccezione che ringraziamo, ovvero Curzio Malaparte. Ringraziamo ancora una volta Stefano Neri per la concessione degli spazi all'interno della Galleria San Lorenzo in pieno centro storico di Montevarchi, e per ultimo ma non per importanza ringraziamo il nostro ospite di stasera che è stato Aldo Notari. Grazie e un saluto a tutti i tifosi e a tutti gli ascoltatori. Grazie anche a tutti gli ascoltatori di Radio Big World e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Faccio una cosa da tagliare e rimettere prima. Il regista della puntata di stasera è un regista d'eccezione, un regista de sé, oserei dire, ovvero Curzio Malaparte. Poi non vedi che non metterà. Sei il primo ospite della nostra trasmissione che ha fatto questo tipo di esperienza. Che differenze ci sono? Grilli. Ha giocato Alcamo, vero? Alcamo, sì. Allora no, sei il primo no. E poi ecco. No, per capire che brilli, sì, che brilli sì. Si parla, ecco. Ecco, perché, anche perché puoi dargli il nome, perché non me lo ricordo. Furbi, diciamo, o maliziosi, forse più. Ora scusa, ma se fatto. Tu ci hai detto di fare un gol, però voi siete anche retrocessi, cioè tu sei anche retrocesso. E sarà bello fare gol, ma come è retrocedere? E retrocedere è brutto, perché praticamente vanifica tutto quello che hai fatto in una stagione. Poi retrocedere come siamo retrocessi in quella stagione lì è difficile accettarlo. Adesso perché c'è, non mettiamolo in onda, cioè è una cosa che rimane tra noi. Rimini, questa io non so se la sapete, ma non la divulghiamo. C'era un gruppo di ragazzi che era già diversi anni che erano qui e si era già formato un certo ambiente, poi con una mentalità che era diversa da quei 5-6 che eravamo arrivati dopo. Arrivati il Collesi, invece che per modo di dire, lui dopo un mese ci ha fatto mettere tutte le macchine sotto allo stadio, dove c'è il barettino ora, la mattina alle 10:30 in sede, al campo alle 2, la sera alle 6:30 in sede e la sera alle 8 passava da Giorgio per vedere se eravamo al ristorante. Che anche negli spogliatoi ci sono successe delle cose da far west, insomma, e quindi insomma un anno proprio nato male, perché comunque la retrocessione è brutta perché, cioè, ti passa davanti tutta la stagione, vai a recriminare su quell'azione sbagliata che dove hai preso il gol, lo potevi evitare quando l'hai sbagliato e potevi vincere, però a fine anno, e a essere onesti, c'è sempre la causa, non è che sia sfortuna, un motivo c'è sempre dietro, sia quando tu lo vinci che quando tu lo perdi. Io, Curzio Malaparte, io sapevo scriveva libri, ma che ha fatto anche film? Regista, soggetto e dialoghi di un film bellissimo che è Il Cristo Proibito. Unico suo film. Forse non l'ho visto perché era proibito.